Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi, ben ritrovati. E buongiorno da Carlo Gabardini, buona domenica. 8 e 34 minuti, inizia nuova puntata di Si può fare, stiamo insieme fino alle 10. Cari ascoltatori, allora oggi, intanto Carlo, Milano Monterosa. Sempre molto freddo, non c'è neve, non c'è neve. No, non è freddissimo perché si sta un po' alzando la temperatura, perché forse arriva vicino allo zero e forse nevicherà. Allora, cari ascoltatori, caccia, parliamo di caccia, cookies, caccia ai cookies. Caccia ai biscottini? Esatto, e poi una storia che riguarda Torino. Cookies, ne parliamo dopo quando entreremo nell'argomento, perché mi stavo chiedendo giustamente la tua crociata contro la lingua inglese. Cookies, cosa dici? Tu dici biscottini? Dobbiamo trovare una risposta per questo, interrogheremo presto. Giusto, anche l'Accademia della Crusca, naturalmente. Poi giusto. Torino, accoglienza ai senza tetto, un progetto a 5 stelle e poi altre storie. Questo è il menù della puntata di oggi. 800 24 00 24 per stare con noi, per commentare quello che sentite, vale anche il 349 238 6666 per i vostri messaggi. E allora, e poi insomma anche per giocare con noi, come sempre cerchiamo un personaggio della settimana che insomma vale anche in questo caso due bei biglietti per entrare alla mostra di Basquiat. Al meraviglioso Mudec di Milano. Hai visto Basquiat? Sei stato? Non sono ancora stato, perché essendo sempre qui non riesco a telefonare per riuscire a vincere i biglietti. Infatti spero uno dei prossimi weekend cerco di arrivare in ritardo e ti chiamo da fuori. Benissimo, io invece, sapendo che sono troppo stupido per indovinare il nostro stesso concorso, sono andato regolarmente facendo il biglietto. Giusto. E va bene. Giudizioso, allora. prima di regalare i biglietti ai voglio nostri ascoltatori, vai a vedere che cosa regali, certo. E dici, aspetta, voglio vedere se è adatto ai nostri ascoltatori. Assolutamente. Allora, il primo indizio che vi andiamo a dare, cari ascoltatori, è questo. Il nostro personaggio di questa settimana è protagonista di una storia d'amore. Una storia d'amore, quindi pensate negli ultimi 7 giorni, la cronaca, una storia d'amore, e chiamate all'800 24 00 24. Adesso iniziamo con qualche notizia di questa settimana, vai. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Abbiamo notato in questi giorni che c'è stato un dibattito molto intenso del Paese rispetto ai quesiti referendari. La nostra memoria non ci ricorda precedenti di analoga quotidiana pressione rispetto a come si sarebbe dovuto decidere. Una proposta in Parlamento che fa riporta i voucher alla ragione per cui sono nati. I voucher hanno una loro ratio, però c'è una proposta in Parlamento che riporta i voucher all'utilizzo iniziale, originario. Qual era l'obiettivo dei voucher? Far emergere un po' di lavoro nero. In quel senso lì potevano secondo me essere accettabili. Oggi siamo di fronte ad uno stravolgimento. Constatato il mio errore, ho considerato mio dovere scusarmi subito per quell'espressione, anche perché molto lontana dal mio pensiero, dalla mia storia personale e dal mio modo di agire. Scuse che confermo in quest'aula parlamentare. Allora, insomma, queste sono alcune voci della settimana. Susanna Camusso, segretaria della CGIL, che commenta la bocciatura di uno dei tre quesiti da parte della Corte Costituzionale che non è stato ammesso, tre quesiti referendari, per cui non si voterà, si voterà forse sicuramente sugli altri, se non ci saranno altri intoppi. Quello ma sul quello ripristino. Il ripristino dell'articolo 18. E lei, insomma, neanche tanto velatamente accusa un po' di pressioni da parte di ministri, della politica, insomma del governo, nei confronti della Corte Costituzionale. Bisogna dire che della Corte Costituzionale è anche abbastanza zeppa di ex politici, tipo Giuliano Amato, tipo Augusto Barbera. Sono persone che insomma sono passate di qua di là dalla sponda della politica. Quindi questa è una valutazione, diciamo, sul curriculum dei membri della Corte Costituzionale. Ma al di là di questo, voucher, tema voucher. Avete sentito anche il candidato alla segreteria del PD, chissà quando, Roberto Speranza, chissà quando si candiderà. La sinistra del PD. La sinistra del PD, sul tema dei voucher, i voucher, allora insomma, la storia dei voucher la sapete, non stiamo qua a riepilogare. Poletti ha chiesto scusa per le questioni, c'è stato il question time dopo le sue frasi sui gli italiani all'estero. Sentiamo anche Poletti invece proprio sui voucher, perché il governo stesso dice sì, in effetti c'è stata una esagerazione, un abuso, scappata di mano, un abuso, quindi riforma in arrivo. E in relazione alle prime evidenze tratte dall'analisi dei dati di monitoraggio sull'uso dei voucher, che il governo considera necessaria una revisione di questo strumento al fine di riportarlo alla funzione per la quale era stato disegnato, ovvero di dare copertura previdenziale e assicurativa alle attività occasionali portandole fuori dal lavoro nero. Fa il cinghiale, dai dai dai, prova a sparare, ma stavolta è svelto per davvero, salta il fosso e ti fa marameo. Allora, salutiamo Sergio Berlato, consigliere regionale Veneto, autore di una legge che sanziona chi disturba l'attività venatoria dei cacciatori nella regione. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Buongiorno. E quindi, come avrete capito anche dalle note introduttive, parliamo della difficile, sempre abbastanza difficile a me, coesistenza tra i cacciatori e insomma gli animalisti da un lato sicuramente, ma anche semplicemente con gli altri che frequentano la campagna, gli agricoltori, gli escursionisti eccetera eccetera. Allora, non dovrebbe essere difficile, basterebbe avere rispetto reciproco, quindi la coesistenza dovrebbe essere abbastanza semplice. Rispetto reciproco, ok, perché qua sta il punto. La legge approvata sanziona con una multa fino a 3.600 euro chi ostacola o disturba intenzionalmente i cacciatori. Io faccio solo una piccola premessa, poi le chiedo di spiegare la ratio di questa norma, che però è stata un po' contestata, perché si dice pene eccessive, pene che non ci sono per esempio nei confronti degli abusi dei cacciatori. Io personalmente non ho nulla contro la caccia, anzi credo che sia migliore rispetto a tanti o certi allevamenti che ci sono, diciamo, quanto poi alla finalità di ottenere una bella costata o un pezzetto di cinghiale a tavola, diciamo tutta così come sta. Allora, detto questo però, dove sono, chi sono, cosa fanno, dove si trovano tutti questi disturbatori dei cacciatori? Perché questo è il punto. Ci sono così tanti disturbatori di cacciatori da giustificare una legge così, Bellato? Purtroppo noi in Consiglio regionale del Veneto siamo stati costretti ad approvare questa norma. Non ci sarebbe stato bisogno di approvare questa norma se ci fosse stato questo rispetto reciproco più volte auspicato. Sono sempre più frequenti i casi di vere e proprie aggressioni, non solo verbali, di gruppi organizzati di animalisti. Non stiamo parlando degli ambientalisti nei quali abbiamo riposto le nostre speranze e il nostro rispetto, ma gruppi organizzati di animalisti esasperati che aggrediscono fisicamente delle persone mentre esercitano delle attività lecite come caccia e pesca. Ecco, se partiamo dal presupposto che caccia e pesca, come altre attività, sono considerate attività lecite, sono normate da direttive comunitarie, da leggi specifiche a livello nazionale, certo, e regionale e quant'altro, ecco, allora abbiamo questo approccio. Scusi, noi ma abbiamo... quindi accade che uno va a caccia, in genere non da soli, spesso si va in coppia, in gruppo, e si trova che cosa? Dei gruppi di animalisti che... perché mi viene difficile immaginare che uno senza doppietta si scagli contro uno con la doppietta mentre sta cacciando. Accade questo in Veneto? Purtroppo accade frequentemente in tutta Italia. L'ultimo caso... in ordine di tempo è accaduto a Mantova la settimana scorsa, è stato riportato anche dai mezzi di informazione. Un cacciatore anziano che stava esercitando la sua attività è stato aggredito da un gruppo di questi criminali, perché così bisogna definirli, è stato massacrato a pugni e calci, è stato mandato in ospedale, ha avuto una lesione molto seria della colonna vertebrale, corre il rischio di rimanere in sedia a rotelle. No, vedi, questo è un caso di cronaca, in effetti detta così molto grave. Io però devo essere sincero, è la prima volta che sento una cosa così, mai sentito. Guardi, una cosa così. Io ho avuto modo di documentare, ma è semplice, basta andare in Facebook, perché questi... No, guarda, in Facebook si trovano anche, diciamolo, tante, posso dirla la parola, sono le 8:43 puttanate, lo dico così giusto, amichevolmente. Buona domenica. Buona domenica a tutti, se ne trovano parecchie, bella, lei lo sa meglio di me. Siccome lo so... meglio di altri, io mi limito a guardare i filmati che vengono pubblicati in Facebook da questi gruppi di animalisti, filmati, perché questi quando fanno le loro prodezze le filmano e poi le pubblicano, quindi ci limitiamo a constatare quello che viene pubblicato in Facebook. Io credo che ma mi scusi, una cosa che volevo capire, quindi in realtà questa legge è fatta unicamente per i gruppi di animalisti che aggrediscono i cacciatori, giusto? Solo ed esclusivamente nei confronti di questi gruppi di criminali. Guardi, e non siamo neanche originali nel fare questa cosa, perché la Francia ha già approvato una legge nazionale che prevede sanzioni penali per questi gruppi di estremisti. Però mi scusi, solo nei confronti di queste persone che si rivolge la mia legge, perfetto, la 182, ma quello che non mi, nei quello, confronti ma, di chi fa la manifestazione. Cioè, ma il diritto scusi, di manifestare. Mi scusi, ma non c'è bisogno di una legge nel momento che lei mi sta dicendo un gruppo di persone che va, picchia una persona da sola e la mette in carrozzella. Già un reato penale, io spero, sì, io spero che non ci sia il problema di pagare 1.000 euro, perché loro avranno un processo penale, ovviamente per aggressione, e quindi non c'è bisogno, dico, di una legge. Il Consiglio regionale del Veneto non è composto da gruppi di persone che non sanno intendere o volere. Noi sappiamo perfettamente che ci sono delle sanzioni penali, articolo 610 del codice penale, che prevede delle sanzioni penali per chi commette delle violenze private. Purtroppo questo articolo o non viene applicato, o quando viene evocato per affrontare queste situazioni, ci siamo resi conto che purtroppo per la giustizia malata che c'è in Italia, chi commette queste azioni vede poi un processo che va avanti più di 10 anni, ne abbiamo tanti casi. Allora, ma questo è un problema dell'Italia in generale, mi permetta di chiarire questo aspetto. Siccome ci siamo resi conto che questi criminali che con sempre più spavalderia commettono questi atti, rimangono sostanzialmente impuniti, abbiamo preferito, come è successo anche in altre regioni, perché anche la regione Lombardia si è adottata una legge analoga, anche la regione Liguria, e ben presto, cioè lei dice una sanzione subito è più efficace, come disincentivo che in un processo che dura 10 anni. Ma non è possibile, esatto. questo è anche possibile, però Bellato, sì, resti un attimo lì, l'abbiamo capito, un attimo perché devo dare la linea al traffico, quindi devo interrompere un attimo l'intervista, però le anticipo quella che è un'altra obiezione, perché se, come diceva Carlo, questa cosa si rivolge unicamente contro chi, come è successo in questo caso a Mantova, ha aggredito fisicamente un cacciatore mandandolo all'ospedale, credo che nessuno abbia niente da dire anche sul fatto che si possa pagare una multa, anzi c'è un processo penale, quindi ben più grave. La multa mi sembra niente. La multa è niente. Il punto è, qualcuno dice, su questa cosa intenzionalmente disturba, quindi si può sindacare, rischiamo di trovarci con cercatori di funghi, ciclisti, escursionisti della della domenica, agricoltori, proprietari di terreno che, passando di lì per caso, in qualche modo intralciano l'attività del cacciatore e rischiano di beccarsi una multa. Basta un bimbo che fischietta. Basta, questo, esatto, questa è un'obiezione, però gli chiedo di rispondere dopo il traffico. Intanto, ascoltatori, all'800 24 00 24 vi chiedo se questa legge regionale del Veneto vi convince, se non si può fare, che vi trova d'accordo oppure no. Multe a chi ostacola i cacciatori. Tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, di nuovo con il consigliere regionale Veneto Sergio Berlato, autore di questa legge che prevede multe fino a 3.600 euro per chi ostacola. E questa è anche un po' la questione, no? La parola è disturba i cacciatori. Cioè non si rischia, come dicevo prima, le anticipavo Berlato, che un ciclista che passa di lì viene denunciato da un cacciatore perché l'ha disturbato e magari si becca una multa solo perché passava di lì. Mi perdoni, non è così, perché basta leggere i contenuti della legge per capire che viene punito con una sanzione amministrativa che va da 600 euro. Sì. E poi uno è recidivo fino a un massimo, sì, di 3.600 euro. Ma fossero anche 600 euro per un ciclista o per uno che cerca funghi o per un altro? Ma non è nei confronti di queste persone che si rivolge e che verrà applicata la legge, perché la legge parla di punire chiunque intenzionalmente voglia impedire l'esercizio di attività lecite come caccia e pesca, e quindi viene fatto salvo il diritto garantito dalla Costituzione di manifestare il proprio dissenso nei confronti di qualsiasi tipo di attività. Quindi gli ambientalisti che vorranno, in occasione dell'apertura della caccia, della pesca, fare le loro manifestazioni nel rispetto della legge, questo verrà. Certo, beh, ci mancherebbe, questo ci mancherebbe. Quindi allora. Nei però allora non mi è chiaro. Le chiarisco intenzionalmente. Sì. Allora, lei capisce se una persona le dà intenzionalmente un pugno in faccia o se inavvertitamente, girandosi, magari le pesta un piede? Allora, l'intenzionamento. Il problema è che lo dovrà decidere un giudice, non è che lo decido io, quindi non è interessante. Infatti, non sono io a deciderlo, ma esatto, sono gli organi di polizia. È molto chiaro questo. Queste infrazioni sono solo gli organi di polizia, carabinieri o polizia. Vuol dire che se ci saranno aggressioni di questa natura, come ne avvengono tante, il cittadino non è che sia lui a comminare la sanzione, ma chiama la polizia, la polizia o i carabinieri escono, accertano il fatto e se ravvisano l'intenzionalità nell'aggressione, non solo verbale, la persona viene ovviamente verbalizzata e viene comminato nei confronti di questa persona, tra virgolette, una sanzione amministrativa. Perfetto. Che è una sanzione certa. Abbiamo capito la cosa che mi sto chiedendo è che in realtà si rischia semplicemente che abbiamo dei cacciatori che tutte le volte che incontrano qualcuno che gli dà fastidio chiamano i carabinieri e abbiamo questo momento fra carabinieri, bambini che disturbano dei cacciatori e che si decide la sanzione. Lei vuole forse far credere che i carabinieri e i poliziotti siano tutti dei deficienti? No, per nulla, allora, proprio il contrario. Chiedendo precisamente, sì, la questione della legge, perché lei, secondo me, giustamente, sta dicendo ci sono persone che disturbano, persone che hanno non mandato che all'ospedale, persone che hanno. Non che disturbano, ma che impediscono, spesso con atti violenti, impediscono a delle persone che sono in regola con la legge di poter esercitare le loro attività. Solo nei confronti di queste persone viene applicata la legge ed è chiaramente scritto nei contenuti della legge. Certo, quindi cioè, il fatto che venga impedito a uno che vuole andare in bicicletta di cantare, di suonare il campanello, sì, o di accendere la radio è una banale strumentalizzazione. Ma se lo fa per impedire la caccia, cioè se passano in 10 in bicicletta fischiettando per impedire che alcuni uccellini vengano uccisi da dei colpi di fucile, quello è un disturbare o no? È un impedire la caccia No, perché lei se passa fischiettando o suonando il clacson, il campanello, non impedisce l'esercizio di attività venatoria. E la legge va a colpire solo chi intenzionalmente vuole impedire. Aggredendo. Abbiamo chiarito questo aspetto. per me è molto chiaro. Il problema è che secondo me, se attraverso un'aggressione, come ci ha giustamente spiegato, un'aggressione di un cacciatore che è stato mandato all'ospedale, preferite che abbia una multa di 600 euro, mi sembrava riduttivo in questo senso. No, non è riduttivo perché purtroppo. No, ma l'ha già spiegato, Bellato, l'ha già spiegato questo. C'è un'altra obiezione, però. C'è un'altra obiezione, mi ascolti, Bellato. C'è un'altra obiezione che fanno gli ascoltatori, che è questa, e gliela giro. Io abito in campagna, dice un ascoltatore. I cacciatori fuori dalla mia casa sparano in cortile. Non ho leggi che mi tutelino. Allora, al di là di questo caso un po' estremo di questo ascoltatore, gli sparano nel cortile, bisognerebbe vedere di cosa si tratta. Ci sono tante cose che a volte fanno i cacciatori che molestano. Per esempio, una cosa la più stupida di tutte, che mi dice sempre il mio amico Marco, che ha la terra a campagna in Toscana e la lavora, è che i cacciatori lasciano regolarmente le cartucce in terra, no? Oppure non chiudono i cancelli quando passano. Perché non avete inserito in questa legge anche delle pene di questo tipo? È già previsto da una legge statale. Che legge però statale le pene sono più basse di quelle che ha previsto lei. Mi permetta, la legge statale sulla caccia, la 157 del 92, è l'unica norma in Europa che preveda, a seconda della gravità dell'infrazione, addirittura sanzioni penali per chi non rispetta la legge. Dopodiché, troppo frequentemente si fa confusione tra chi è bracconiere e non rispetta la legge e il cacciatore. È come confondere il ma forse sono strada, i cacciatori stessi che si comportano che confondono, perché guardi, chi non rispetta la legge deve essere pesantemente sanzionato, e la legge statale sulla caccia, la 157/92, sanziona penalmente chi non rispetta la legge. Allora, ma per esempio cosa rischia in Veneto il cacciatore che lascia le cartucce di plastica sul terreno di un agricoltore? No, cioè, se spara cosa troppo vicino a una casa rischia dai 200 ai 600 euro, giusto? Allora, ci sono delle distanze da mantenere, sono minimo 100 metri delle abitazioni. Ma è giusto quello che ha detto Carlo? Minimo 100 legge. Allora, per chi lascia un bosso per terra, che è un'infrazione che viene punita attraverso una sanzione amministrativa, c'è un'adeguata multa che è quella che è stata ricordata, no? E ora io spero che non si voglia paragonare. No, no, quella multa è per chi spara, e che per chi spara troppo vicino a una casa prende dai 200 ai 600 euro, che non sono, per chi lascia un bosso. Che sono pochi rispetto ai 3.600 di chi cerca di impedire la caccia. Bellato, noi però dobbiamo chiudere perché c'è il GR. Grazie per essere stato con noi. Ascoltatori, vi ha convinto? 800 24 00 24 oppure no? A dopo. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30. Su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi. Buongiorno da Carlo Gabardini. Quando sono le 9:09 di domenica mattina riprende Si può fare. 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi. Intanto, per giocare con noi siamo alla ricerca di un personaggio della settimana, come tutte le domeniche, quindi qualcuno, un personaggio al quale una notizia è legata, avvenuta durante questa settimana, che in qualche modo è un Si può fare. Una storia d'amore, abbiamo detto come primo indizio, tra poco aggiungeremo qualcosa. Ci sono degli sms che arrivano, tra poco credo anche delle telefonate, sulla questione di Berlato, la legge regionale sulla caccia e sulle multe, a chi ostacola i cacciatori. Multe controverse, perché fino a 3.600 euro non ci sono pene così severe per il cacciatore che spara troppo vicino a una casa, per esempio. Allora c'è chi scrive, Marco da Perugia: buongiorno, meno male che ci sono i cacciatori, altrimenti in campagna siamo invasi dagli animali selvatici. Giusto, ma nessuno, cioè giusto, insomma, punto di vista, vero però, perché in tante città si ricorre a, si è chiesto l'intervento dei cacciatori, per esempio per la questione dei cinghiali, però qua la questione è diversa, Poi, se mi chiamate racconterò cose folli che mi sono capitate aggredito dai cacciatori, dice un ascoltatore anonimo, chiama tu se proprio credi, e noi siamo qua, 800 24 0024, assolutamente. Allora, che facciamo? Sentiamo qualche ascoltatore? Sì, vai. Poi andiamo con il riepilogo della settimana. Paolo dalla provincia di Varese. Buongiorno Paolo. Vai. Il nome del gatto è Oggy, per quanto riguarda il personaggio della settimana. Ah, pensavamo fosse un messaggio in codice. Il nome del gatto è Oggy. Oggy. Ok, quindi ripropongo. Allora, la risposta al personaggio di Mara è un gatto di nome Oggy. Oggy il gatto, perché? Perché ha percorso 140 km per tornare a casa a Firenze. Sì. E mi pare il giorno successivo è morto. Ma che storia. Beh, no, è una storia bellissima, cioè, in realtà, che poi ieri ho letto la notizia che il gatto fosse morto e ci sono rimasto malissimo. In realtà è una storia che fino a prima che morisse era stata raccontata molto bene, nel senso che un gatto che era stato mollato distante, esatto, perso in Maremma a 140 km di distanza, e ci ha messo 2 anni per tornare fino alla porta della padrona. Poi purtroppo non so se per l'emozione o qualcuno dice che ha fatto tutto questo lunghissimo viaggio per andare a morire a casa, effettivamente ieri ho letto che è morto, e quindi mi sono talmente intristito che non è la storia che abbiamo scelto, però siamo contenti di aver ricordato questo bellissimo racconto. Grazie Paolo, grazie, perché in effetti è una storia incredibile questa qua, come ce ne sono tante che riguardano gli animali. No, però immaginavo questi 2 anni, perché ci sono state molte persone che hanno raccontato che probabilmente lui si è fatto ospitare questo gatto da altre famiglie durante questi 2 anni, perché non è che i 2 anni li ha fatti tutti percorrendo la strada, ma a tappe. Egle da Trapani, buongiorno. Egle. No, secondo me il personaggio della settimana è rappresentato da una coppia, Obama e la moglie Michelle. Perché? Perché sono stata sono una coppia perfetta, praticamente. Non mai motivi di scandalo, non c'è stato mai gossip. L'uno ha sempre sostenuto l'altro, e Obama è diventato grande grazie a Michelle, perché dietro un grande uomo ci sta sempre una grande donna, e di questo ne sarò sempre convinta. Ecco perché. E però a quale notizia di questa settimana ti riferisci? Perché chiaramente, no, che sia una storia d'amore, discorsi, questo sì. Sì, i vari discorsi d'addio alla nazione americana, certo. Perché ormai che poi la settimana prossima era scaduto. Esatto, la settimana prossima sarà il momento ufficiale dell'insediamento di Donald Trump. Trump, sì. È vero, Egle, però non erano loro la coppia, non era questa la storia d'amore, non era Michelle Obama. Ma quindi in qualche modo la protagonista che andiamo cercando. 800 24 0024, vogliamo specificare che è una storia d'amore un po' controversa, giusto, che cioè vale come secondo indizio, vale questo? Per ora come secondo indizio, sì, uno e mezzo, poi vediamo se vi muovete bene, vi aiutiamo. se vi muovete bene, bravi, se non vi muovete bene, che non ce la fate, vi aiuteremo noi a muovervi. Edi da Vicenza, intanto buongiorno. Buongiorno. Prego, allora, buongiorno. Mi piace essere preceduta dalla notizia del gatto. Sì. Allora, io chiamo per quanto affermava e ha affermato in tutti questi anni il signor Berlato, che è stato eletto grazie ai cacciatori, quindi lui non ha fatto che il suo, tra virgolette, dovere politico, istituendo ad hoc una legge per proteggere un gruppo di persone. Quando ad esempio si parla di leggi che devono proteggere, che ne so, i crimini a sfondo razziale, sì, i crimini a sfondo sessuale. Ma in che senso proteggere i crimini a fondo razziale? Quando ad esempio si è parlato, si fanno dei, scusi perché sono fuori, c'è un rumore. Prego. Quando ad esempio si discute se servono ulteriori leggi per proteggere le persone, si dicono che le leggi esistenti ci sono già. Sì. E questo quando si parla di femminicidio, quando si parla ad esempio di crimini a sfondo razziale, quando o sessuale, quando ad esempio ci sono, sì, problematiche che riguardano la comunità LGBT. Quindi voglio dire che questa persona abbia fatto una legge ad hoc per i cacciatori, sì, lui sono anni che viene eletto per questo motivo. Ma va bene, infatti nessuno, però non abbiamo capito qual è la sua posizione. Nessuno forse sindaca su sulla sì, questione infatti, della legge. Non è questo il punto. Poi personalmente non sono nemmeno contrario alla caccia, quindi non è una questione che sia una legge sbagliata. Mi incuriosiva capire la legge che cosa stava tutelando, ovvero siccome si parla di disturbo o aggressione, volevo capire quando diventava un disturbo per un cacciatore, nel senso che un cacciatore che viene aggredito ovviamente è un reato e ci mancherebbe dell'altro. Il problema è capire quando viene disturbato. Allora, può essere tutto e nulla a seconda. Appunto, ed era questo che mi incuriosiva. Se io impedisco a un cacciatore di usare la sua arma, mi posso mettere davanti, questo può essere già un reato punito con questa legge, cioè ammendato con questa legge, perché c'è un'ammenda. Quindi quello che vorrei dire io, sì, è che Berlato da decenni protegge i cacciatori. Sì. Viene eletto grazie ai cacciatori, ha fatto una legge per i cacciatori. Mi dice solo una cosa, Edi, questo è chiaro, ogni consigliere regionale, ogni parlamentare che ha un bacino elettorale sicuramente fa riferimento a quello, è legittimo che faccia, come dire, si chiama lobby, chiamatelo come vi pare, è legittimo. Ma lei che ne pensa, Edi? È d'accordo? No, questo mi manca. Sono contraria, sono contraria a tutti i... le sofferenze che vengono causate agli animali, qualsiasi siano. Ma la caccia è proprio voluta, anche perché non si tratta... Però la caccia è legittima, no, in Italia, quindi un cacciatore può legittimamente fare... Può legittimamente, esatto. Non è etica. Ma non la protegge la legge di Berlato, però la protegge la legge italiana che consente in certe condizioni la caccccia. Qui si parlava di un'altra cosa, si parlava di questa legge in particolare. Sì. Ecco. Però ne è una conseguenza che poi Berlato dica che la legge è etica... Non so da che punto di vista, perché non basta una legge per rendere legittimo quello che si sta facendo, perché non si tratta solo tipo di passero, che viene anche quotato in nero a un euro, perché c'è poi il tutto passero? Un mercato nero sulla selvaggina. Scusi, non ho capito, Edi, il passero viene quotato in nero a un euro? Sì, viene quotato anche un euro, pure i merli, sì, vengono cacciati, non è che ci sono soltanto i cacciatori regolari. Cioè poi vengono rivenduti in nero? Sì, per fare cene, per e quanto fare costa mercato. Un passero? Un passero avevo letto un euro. Che la caccia è vietata, la caccia euro del passero, no? Questo è, sì. Quindi viene però cacciato e rivenduto a un euro, un passero, certo, a un euro? Sì, sì, questo avevo letto questo abbastanza, non lo sapevo, perché ogni tanto leggo, poi ci sto Vabbè, male però non questo, leggo. Devo dire la verità, Edi, non c'entra molto con... Cioè, c'entra indirettamente c'entra col tema della caccia, quindi indirettamente anche con la legge di Berlato, che, abbiamo detto, presta il fianco a varie critiche. Lui l'ha giustificata così, e quindi di questo parlavamo stamattina. Grazie per aver chiamato e per aver detto anche il tuo punto di vista. Tra poco, 800 24 00 24, riprendiamo, rimicrofoni aperti, e vi ricordo che stiamo anche cercando un personaggio, però, di questa settimana, una storia d'amore controversa, quindi aguzzate l'ingegno. Tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questa era la parte finanziata del Piano Nazionale Vaccini, ad esempio tutta la questione della vaccinazione sul meningococco, rotavirus, papillomavirus, saranno gratuite per i nostri cittadini, e a questo proposito io raccomando veramente di seguire il nuovo calendario vaccinale e di fare anche le vaccinazioni come quella per il morbillo, dove noi abbiamo parlato tanto di meningite in questi giorni, ma i focolai sul morbillo ci sono e sono molto pericolosi. Innanzitutto penso che i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che operano in queste condizioni nei pronto soccorso italiani sono degli eroi quotidiani che fanno il loro lavoro, svolgono la loro missione, e quindi quando arriva un malato hanno il dovere e il diritto di curarlo in ogni modo possibile. Quindi questo è innanzitutto il mio pensiero, ma rivolto a questo caso come a tanti altri. E queste erano le voci del ministro della salute Lorenzin su due notizie della settimana. I medici hanno sicuramente il dovere di curare, non hanno sicuramente invece il diritto di farlo in qualunque modo, questo è certo, ma comunque. L'altra notizia invece è quella che riguarda i vaccini. Questo è un si può fare importantissimo, vaccini, un piano nazionale di prevenzione vaccinale inserito nei livelli essenziali di assistenza. Presto ci saranno le specifiche, perché deve ancora passare al vaglio tecnico questa cosa, 200 milioni di euro previsti dalla Lorenzin. Eugenio da Milano, buongiorno, benvenuto. Poi tra poco parliamo di cookies, questi sconosciuti. Vai, Eugenio. Eugenio? Buongiorno a voi. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire? Volevo rispondere al quesito sul personaggio della settimana. Sì, chi è? Secondo me è Brad Pitt. Why? Perché? Ma sembra che si siano riappacificati, così erano tutte che avevo sentito, poi non so se è corretto o no. Più che riappacificati, se ho capito, hanno trovato un accordo su come separarsi, mi pare di aver capito. Sì, prego. Sì, no, ma no, cosa sta succedendo lì? Siamo più No, sono un tassista, sto prendendo il cliente in questo momento. Ok, allora questa è la parte che mi sembrava bella, cioè, è vero? Beh sì, a parte che i tassisti sono nostri ascoltatori e quindi... Tra poco parliamo di privacy, senza violare quella del tuo cliente. Dove lo stai portando? In via Tortona, al White, perché oggi c'è la moda Milano uomo. A casa mia praticamente lo stai portando, benissimo, io abito in quella zona. Bene, Eugenio, allora buon viaggio a te. Comunque non è Brad Pitt. Esatto. Non è Brad Pitt, mi spiace, ci tenevamo a tenerti un po' il telefono, ma grazie mille di aver chiamato. Sì, no, anche perché non si sono riappacificati, io non sono molto al corrente di Brad Pitt. Hanno deciso che il loro divorzio sarà meno pubblico, ovvero che non usciranno tutte le... giudice privato, cioè, io ho letto. Esatto, non si scanneranno pubblicamente. Quindi è un po' diversa la cosa. Comunque, 800 24 00 24, stiamo ancora cercando un personaggio della settimana protagonista di una storia d'amore controversa. Mi sta andando via la voce. Che facciamo? Parliamo tra pochissimo subito di cookies e di privacy. Naturalmente sulle note di Mission Impossible, come sembra essere impossibile la missione che sta cercando di intraprendere l'Europa, la Commissione Europea, contro i cookies. Parliamo dei giganti del web e non solo, ma intanto diamo la buona domenica a Giuseppe Busia, che torna a trovarci. Buona domenica, grazie. Buona domenica, generale dell'autorità della privacy, garante della protezione della privacy. Allora, mentre stanno impazzando tra l'Europa e gli Stati Uniti guerre commerciali sulla questione dell'inquinamento delle automobili, la questione delle banche, adesso la Commissione Europea apre sicuramente quello che è un altro capitolo critico nei confronti delle società del web, spesso americane, sulla questione dei cookies. Io adesso faccio una cosa sinteticissima, poi le chiedo, Busia, di fare anche un po' da jukebox per gli ascoltatori, le facciamo tante domande, lei cercherà di darci un po' di risposte per spiegare di cosa stiamo parlando. I cookies sono quei software che ci spiano mentre navighiamo su internet, generalmente a fini commerciali, per poi proporci delle pubblicità. Cominciamo da qua, ci spieghi un attimo che cosa sono i cookies e poi arriviamo alla proposta della Commissione Europea che vuol mettere un freno a questa questione qua. Cosa sono i cookies, Busia? Diciamo sì, sono dei piccoli programmini che vengono scaricati sul nostro computer, però attenzione, possiamo dire ci sono dei cookie buoni e dei cookie cattivi. I cookie buoni, un po' come per i biscotti effettivamente. Sono i cosiddetti cookie tecnici, quelli sì, che ci aiutano a navigare, che per esempio ricordano che dopo che ho inserito la password passo all'interno dello stesso sito a un'altra pagina web, riconosce me stesso e mi evita di inserire continuamente la stessa password. Questi sono cookie che consentono una navigazione scorrevole, sono i cosiddetti cookie tecnici. E che sono comodissimi, questo possiamo dirlo, perché sennò sembra che si parla sempre male. Invece esistono sono altri cookie che sono sempre programmini, dipende da cosa ci si mette dentro in questi biscottini, sì, che servono invece magari a controllare la nostra navigazione, a capire dopo che sono passato in un sito quali siti ho visitato fino a quel momento e quando ci ritorno. Penso sono i cookies avvelenati, sono i cookies avvelenati, quelli avvelenati, i biscotti avvelenati. Avvelenati, e la normativa è diversa per gli uni e per gli altri, mentre i primi, questi cookie tecnici, possono essere installati anche senza consenso, anche se chi li installa deve dirci che li ha installati e noi, sì, dobbiamo controllare, eventualmente possiamo anche opporci. Per i cookie invece di profilazione chiediamo, e anche la nuova regolamentazione chiede, un consenso esplicito. Perché però la fermo subito su questo, Busia. Sì, la fermo subito su questo. Ad oggi, mi dica se sbaglio, però io non posso scegliere di entrare in un sito senza essere profilato. Io posso scegliere di non entrare in quel sito che mi profila. No, prima che inizi la navigazione, se esistono questi cookie, sì, di profilazione, lì vede apparire un banner e, sì, può negare il consenso o darlo, oppure può approfondire, perché il banner dà un'informativa molto sintetica, sì, può cliccare dentro. Però io negando Busia, negando il consenso, che cosa ottengo dal punto di vista della mia navigazione? Cosa succede? I siti sono tenuti a portare a una forma di navigazione, eventualmente dirotando una parte del sito in cui questi cookie non ci sono. Quindi e questa cosa funziona oggi? Meno ricca, ma devo poter navigare. Questa cosa funziona effettivamente? Questa previsione viene rispettata? O... In parte sì, in parte no. Noi vediamo ogni giorno, c'è spesso anche una non buona applicazione che rende, nonostante lo sforzo che noi abbiamo cercato di fare, poco agevole la navigazione, con banner che si ripetono continuamente. Quello che noi abbiamo chiesto e che è importante è, uno, consapevolezza. Dobbiamo sapere che quando andiamo sui siti ci sono questi programmini che possono essere anche programmi spia, e ciascuno di noi deve avere consapevolezza che esistono. Due, deve poter anche, andando e prendendosi la briga di andare nella parte in cui si può selezionare, dare o negare il consenso, anche sapendo che questo può portare a una navigazione magari, sì, meno ricca, perché, del sito. Perché sa perché io le faccio questa domanda e su questo dedico ancora del punto? Perché quello che normalmente ci appare scritto è che cliccando ok, ma anche cliccando qualunque parte della pagina che si apre aprendo il sito, io acconsento all'uso dei cookies. Praticamente non acconsentire, e cioè poter navigare senza cookies, sembra quasi impossibile. Questo è un modo, come dire, fatto per consentire una navigazione agevole, perché ciascuno di noi il consenso in quel contesto lo può esprimere cliccando. Se invece si va nella pagina a cui rinvia il banner, allora si ha la possibilità di selezionare anche diverse opzioni a seconda del sito, per cui esprimere un diciamo negare il consenso è possibile, e in quel caso si viene dirottato in una parte del sito. Sì, io ho la sensazione che questo che lei dice sia non rispettato da molti siti, però questo è la mia sensazione, molti, forse moltissimi siti. Quindi già questo è comunque un punto critico. Adesso però arriva, intanto le voglio chiedere un altro elemento da jukebox: cosa sono i cookies di terze parti, quelli contro cui si sta scagliando l'Europa? I cookies di terze parti sono cookie che non sono messi dal gestore del sito che noi vediamo, la, sì, pagina web che stiamo guardando, ma da terzi con cui la pagina web ha stipulato un accordo, e quindi noi stiamo dando i dati quando navighiamo, non solo prima consapevolezza stiamo dando i dati, ma forse li stiamo dando anche a soggetti che non abbiamo ben chiari e non conosciamo. Quindi non sto dando i miei dati al sito, mettiamo, io entro su Amazon e Amazon mi profila in qualche modo per favorire la mia navigazione. No, io sto dando i miei dati a una società terza che poi segue tutta la mia navigazione su tutti i siti, e alla fine ha un quadro e questo lo vediamo praticamente quando, passando da un sito all'altro, sì, magari abbiamo cercato un viaggio, un albergo, eccetera, la pubblicità relativa al bene che abbiamo cercato la troviamo su un sito totalmente diverso. Vuol dire che dietro c'è un gestore di pubblicità che ha raccolto la prima navigazione e mi mette la pubblicità nel secondo, ecco, sito. Se ho capito bene, terze parti su cui occorre far chiarezza, sì, nell'informativa alla quale rinvia quel banner che vediamo, sì, c'è scritto e ci deve essere scritto e ci deve essere il link che rinvia a queste terze parti. E anche questo ho la sensazione che non sempre accada. No, se si ha la pazienza di andare dove c'è il link salve violazioni, che noi vediamo esistono e cattive applicazioni e ci sono anche sanzioni per chi non rispetta queste regole, però diciamo spesso occorre, quando si clicca quella cosa Busia si ripropone il sito di partenza e non cambia nulla, però questa probabilmente è un'inadempienza che in qualche modo poi andrà sanzionata, ma facendo un passo in avanti, cosa propone adesso la Commissione europea la nuova frontiera, diciamo, di questa lotta ai cookies scorretti, ai biscotti avvelenati? Diciamo, è stato presentato un disegno di regolamento europeo che aggiorna quello precedente, che è di 7 anni fa, sono un tempo infinito per queste tecnologie. È un regolamento, quindi una legge comune europea, non più una direttiva ma una legge immediatamente applicabile. E altro punto importante, lei parlava di guerre commerciali, le regole si applicano a tutti e questo allinea al regolamento europeo, cioè non importa dove sono situati questi soggetti, siano in Europa o che siano fuori, dovranno applicare le regole comuni. E con riferimento ai cookie, diciamo, definisce meglio quelli che sono il confine fra i cookie tecnici, anche allargando un po' il contenuto, il concetto. Per esempio si dice espressamente che quelli che contano le persone che visitano un sito sono considerati cookie tecnici, in modo da tenere separati quelli, tra virgolette, più pericolosi, quali quelli che monitorano la nostra navigazione, che alla fine profilano. Per i primi non si deve chiedere il consenso, bisogna essere informati ma non bisogna chiedere il consenso. Per i secondi invece siamo noi che dobbiamo e possiamo decidere se voler essere profilati, se dare i dati al gestore del sito o a terzi con i quali si è accordato o no. Devo dire, l'elemento principale a parer mio è questo dell'allineamento e della parificazione di regole per tutti. Questo è molto importante anche per i nostri operatori, cioè non ci sono i grandi giganti, purtroppo ahimè sappiamo non risiedono in Europa, che possono raccogliere i dati in modo indisturbato, ma sempre di più tutti, ovunque localizzino le loro attività, debbono utilizzare e adeguarsi alla legislazione e alle migliori e maggiori tutele che l'Europa offre. Che cosa migliorerebbe in concreto con questa normativa, qualora dovesse essere approvata, per il cittadino, semplice cittadino, diciamolo con parole povere, utente della rete, in termini di privacy? Dovrebbe essere garantita una maggiore applicazione anche per quello che riguarda magari i soggetti che oggi in parte cercano di sfuggire all'applicazione della legge europea, localizzando al di fuori del territorio europeo le loro attività e quindi cercando di sfuggire alle regole europee. Il criterio base del nuovo regolamento, il nuovo regolamento generale che dovrà essere applicato a partire dal 2018, è quello che appunto i cittadini europei sono protetti nei confronti di chiunque utilizzi i loro dati, non importa dove sia, e questo è chiaramente un elemento essenziale quando si parla di internet, dove la localizzazione fisica non avrebbe senso, qualcosa di molto facilmente modificabile, eludibile e difficilmente controllabile. Senta, c'è un'altra questione di attualità di questa settimana che ci preoccupa. Chiarito che sulla questione dei cookies voi come autorità avete lavorato, state lavorando, e la Commissione europea ha in mente di approvare, di proporre questa legge. La questione della settimana è quella del cyberspionaggio, cioè questi due fratelli che sono stati arrestati, che spiavano le mail di personaggi importanti, da Mario Draghi a Matteo Renzi, passando per tanti altri. Ora, quello che hanno pensato tutti è: se riuscivano a spiare le mail di Renzi, figuriamoci le mie. Ammesso che qualcuno interessi di spiare la mail di Alessio Maurizio, di Carlo Gabardini, per quanto mi riguarda credo poco, però se qualcuno fosse interessato a farlo, credo che 448 ci riuscirebbe. È così poco sicura la mail? Credo adesso per l'inchiesta e gli sviluppi li vedremo. Direi che per quello che ci riguarda dall'esterno e come cittadini, questa è un'occasione importante per garantire consapevolezza sui rischi che ci sono. Navigare su internet è bellissimo, importantissimo, essenziale, infinite possibilità, però dobbiamo abituarci a capire che ci sono anche dei rischi. I dati che possano essere raccolti, quelli di cui parlavamo dei cookie o i dati ancora più preziosi, in questo caso le password che danno accesso alle email, alle credenziali delle banche, eccetera, eccetera, sono qualcosa che dobbiamo tutti noi abituarci a proteggere. Come sappiamo che se andiamo in un posto affollato, in metropolitana, custodiamo, stiamo attenti al portafoglio, certo. Ecco, allora dobbiamo acquisire. Però scusi, c'è qualcosa che speriamo. Sì, sì. Che questa inchiesta possa aiutare da un lato le istituzioni che hanno l'obbligo, e noi lo diciamo da anni, abbiamo segnalato anche casi di scarsa protezione, di garantire una protezione a livello più alto di misure di sicurezza dei nostri sistemi, delle reti sulle quali noi operiamo. Dall'altro noi cittadini, noi singoli dobbiamo guardare con attenzione la porta di entrata, il caso di specie era quello della mail o spesso i sì. social network, dove ci arriva un messaggio magari mandato perché triangolano su persone, si introducono, il virus colpisce un nostro amico e poi si dirama attraverso tutti noi, i nostri contatti, per cui noi riceviamo un messaggio apparentemente proveniente da una persona conosciuta che invece contiene un virus che una volta inoculato nel nostro computer consente il controllo dello stesso. Allora cosa fare per cercare di evitarlo? Anche qui Perché vede Busia, la interrompo un attimo per questo, perché lei parla di consapevolezza, però chi può essere più consapevole di un politico, di un direttore di banca, del presidente di un authority? Cioè qui parliamo di cardinali, governatore della Banca Centrale Europea, primi ministri, cavolo, se non sono consapevoli loro che devono stare attenti alla privacy, eppure sono riusciti a forzare le loro email. Questo è il punto, che livello di consapevolezza ci deve essere in un cittadino comune per poter erigere un muro sicuro. Questo sembra, ripeto, quasi impossibile. Il muro sicuro è in parte compito delle istituzioni, che in questo caso evidentemente si è manifestato in modo chiaro che mancavano queste muraglie che proteggessero in modo chiaro specie le figure che ricoprono delle cariche istituzionali particolarmente importanti, e poi si vedrà, si è detto probabilmente un'intrusione nelle loro mail di queste figure specifiche, non c'è stato, tuttavia il rischio esiste e le misure di sicurezza a livello nazionale di protezione generale come misura di sicurezza nazionale vanno accresciute. Dicevo però, siccome questi software, ahimè, si trovano anche sul mercato nero di internet a poche centinaia di euro e possono essere acquistati anche da persone comuni che le possono usare anche nei confronti di persone altrettanto comuni, e poiché questi virus girano anche per truffe di piccolo cabotaggio, per rubare qualche soldo dalla carta di credito o per guadagnare qualche cosa, quindi senza che sia necessario uno spionaggio, il metodo è il più delle volte lo stesso, cioè si passa attraverso infettare la mail di una persona conosciuta, e a quel punto la mail la passa arriva agli altri, come se provenisse da quella persona conosciuta. Sì. Questa è un'esperienza che abbiamo visto. Evitare di aprire il link a cui rimandano, evitare di aprire l'allegato, e se ci rendiamo conto dal contesto, perché il più delle volte c'è qualcosa che non suona nel tono della mail, nel linguaggio, nel tipo di indirizzo, allora molto meglio scrivere con un'altra mail o chiamare al numero di telefono, mandare un piccione viaggiatore. Mi hai mandato una mail, non ho capito bene, me la puoi rimandare? Questo soprattutto se tradotta malissimo, perché di solito sono delle mail inglesi mal tradotte da Google Translator. Molto spesso sì, sì, poiché questo, anche qui è una guerra come fra virus e antivirus, si stanno diventando sempre più credibili e sempre più ben fatte. Questo richiede maggiore attenzione in queste piccole accortezze. Ripeto, noi teniamo i soldi nel portafoglio e lo teniamo nella tasca interna se ci rendiamo conto che c'è un pericolo, analogamente dobbiamo accrescere un pochino l'attenzione, perché la nostra persona, le nostre ricchezze, tutti noi sono sempre di più affidate a questi apparati, e quindi dobbiamo chiuderle a chiave in modo sicuro. Io ho la sensazione, la ringrazio Busia per essere stato con noi, grazie, il segretario generale dell'Authority per la Privacy. Grazie. Ho la sensazione che se non si aumenteranno le pene, se non si imporranno dei comportamenti corretti da parte dei grandi operatori di internet, per noi semplici cittadini sia quasi impossibile proteggersi, per quanto poi quello che dice Busia va fatto, no, no, è senz'altro, va fatto. Soprattutto la cosa molto difficile è chi controlla tutto questo. In questo serve Busia, perché io come posso controllare se veramente non mi sta mandando il cookie e non sta registrando le cose che io verifico su internet, o che non mi sta profilando? Lui mi dice che il sito mi dice che non mi profila, però deve essere qualcun altro che verifica che effettivamente, quando viene detto che non sono profilato, non sono profilato. Perché giustamente, come dice Busia, bisogna tenere i soldi in tasca, e che i soldi in tasca quando vai in una piazza è molto facile tenerli. Su internet non sai che cosa stai facendo, perché a volte scrivi dei dati e non sai a chi arrivano questi dati. Tra l'altro si sono celebrati da poco 10 anni di smartphone, con l'uscita del primo iPhone, e la navigazione su smartphone ha delle caratteristiche spesso tali per cui diventa ancora più difficile forse controllare una serie di cose che si fanno ormai in automatico con un dito, mentre magari sei sul tram. 800 24 00 24, ascoltatori, tra poco, sempre cercando un personaggio della settimana, un amore controverso, l'indizio, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buonasera, benvenuto Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle, buonasera, membro del direttorio, che esiste sempre, vero, il direttorio? Ma diciamo che è stato superato. Ah, è superato, niente, non la presento più allora così. Questa non è stata male, abbiamo così scoperto incidentalmente in diretta che non esiste più il famoso che è stato direttore, superato il direttore. E cosa c'è adesso al posto del direttore? No, chi lo sa? Non lo so. Movimento 5 Stelle liquido, liquido avrebbe detto Zygmunt Bauman. Di cui anche ricordiamo anche sì. La morte. La grande figura di Zygmunt Bauman. Posso dire che io ho letto una volta un libro di Zygmunt Bauman, non riesco neanche a dire Zygmunt Bauman. Una società liquida non si può non averla letta. No, però tutti hanno parlato di Bauman per 2 giorni, quando è morto all'età, quanti anni aveva? Credo quasi 90 o qualcosa del genere. Quindi pace all'anima sua, naturalmente, ma una grande figura. Però chissà quanti poi in realtà hanno parlato a proposito. Io un libro l'ho letto, non ho detto nulla di Zygmunt Bauman, però una volta, e consiglio a tutti la lettura, perché era punto di vista sicuramente interessante, nuovo, quando uscì qualche decennio fa, forse, a questo punto? Sì, beh, insomma, molto di più. Sì. Quanto di più? Comunque ha segnato anche un po' l'inizio di questo 2017, perché se il 2016 è stato l'anno dei cantanti o delle persone dello spettacolo, tra Tullio De Mauro e Zygmunt Bauman, gli intellettuali, gli uomini di cultura si stanno, esatto. Adriana da Trieste, buongiorno. Adriana, buona domenica, ciao, prego. Noi abbiamo una bellissima giornata di sole, anche se fa molto freddo. Ah, poi Trieste, battuta dal sole, deve essere... Noi lavora, anche da lavora. Allora, è da lavora, sì, certo, il vento bora, che sì, spazza via le nuvole, quindi un cielo bellissimo. Sì, cielo meraviglioso, io vedo il mare, bellissimo, bello. Allora, secondo me, stiamo parlando della principessa Margaret del Regno Unito, che è stata sposata con Anthony Hampstead Jones, che è morto in questi giorni, che fu il fotografo. Molto io non so niente di tu, mi sono perso tutto. È stata una settimana complessa per me, mi sono fatto un intervento di ernia inguinale. Quindi settimana, 87 anni, suo marito, diciamo il marito della principessa Margaret. Carlo, tu che hai seguito, rispondi tu. Sì, è sicuramente tutto giusto, la notizia c'è, è sicuramente stato un amore che è stato seguito, molto controverso. C'è andata, no, non so se posso dire che c'è andata vicina, no, però non è la storia che avevamo scelto, ma siamo contenti di averla ricordata. Va bene, ecco, peccato, no, perché poi lei era molto innamorata di quella del colonnello Peter Townsend, voleva sposare quello alla fine, no? Però... Pete Townsend era un musicista, forse? No, era un eroe della RAF della seconda guerra. Sono molto ferrato anche perché c'è una serie televisiva che si chiama The Crown, che ha anche vinto un sacco di premi, che racconta molto bene esattamente. Io vi lascio, vado via, torno tra poco. Questo momento, questo segmento della casa reale britannica. È stato un bel momento di radio, grazie alla signora che chiamava da Trieste. No, chiarisco, perché ieri ho detto, abbiamo parlato di sanità, poi sono arrivati anche dei messaggi, il solito raccomandato ricoverata al policlinico. No, io ho fatto un intervento previsto di ernia, una piccola cosa in inguinale, c'è neanche, insomma, anche meno, lo dico per rassicurare chi magari si dice ha fatto idea, chissà cosa ha avuto. Non sono raccomandato, sono andato in un ospedale pubblico e lì ho fatto questo piccolo tagliandino, insomma, questo ci tenevo a precisarlo. Abbiamo il traffico, tra poco torniamo ancora con gli ascoltatori, ancora con qualche risposta al personaggio della settimana. Abbiamo ancora un quarto d'ora per indovinarlo questo personaggio e poi affrettatevi. Poi Torino, Movimento 5 Stelle, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. E allora, questa devo dire tra tutte le sigle che abbiamo è quella che mi mette sempre di quel buon umore. Ti ricordi la serie Happy Days? Certo che me la ricordo, perché siamo anziani. Siamo anziani, purtroppo, però era bellissima, quindi ci mette sempre quel tono allegro. Una delle musiche che utilizziamo per ricordare che facciamo una cavalcata anche tra le notizie della settimana, infatti, nella puntata della domenica. Infatti intanto a Milano è spuntato Happy il Days. Sole. Esatto. Maria Grazia da Milano, benvenuta. Benvenuto. No, benvenuta lei, benvenuti anche noi, benvenuti tutti. Sì, sì, sì. Buongiorno, che buongiorno, più semplice. Buongiorno, buongiorno. Via. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Su cosa volevi intervenire? Dunque, sul personaggio della settimana. Vediamo un po'. Allora, non conosco il nome, ma dovrebbe trattarsi di una ragazza che, essendosi fidanzata con un ragazzo di colore, si è vista togliere il sussidio economico dal padre, quindi lei si è rivolta a internet per avere il denaro necessario per studiare. È Ally Dowdley. Brava. La risposta esatta. L'avevo pronunciato male il nome. Però Maria Grazia è stata bravissima. Bravissima, bravissima. Grazie, grazie. Hai fatto una sinossi perfetta della storia. Sembra una storia d'altri tempi. Infatti a un certo punto avevamo uno degli indizi che era, volevamo dirvi, è una storia in bianco e nero. Anche perché sembra una storia in bianco e nero, sembra una storia shakespeariana, sembra Romeo e Giulietta, i genitori chi che viene non a cena. Esatto. Una cosa d'altri tempi, però purtroppo in questi tempi succede. Assolutamente, però è possiamo... risolta con i nostri Bravo. Tempi, quindi a colori, perché diciamo è risolta come. Con il crowdfunding, con internet. Perché lei ha chiesto aiuto alla rete per finanziarci gli studi. Aiuto, esatto, si è data da fare, poverina, perché voleva continuare a studiare, nonostante il padre fosse un po' chiuso mentalmente. Succede. Maria Grazia, complimenti, ti porti a casa i biglietti della mostra di Basquiat allo splendido MUDEC di Milano. Vai, brava. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande. Dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. Ma dove vi capita in un'altra radio di sentire Piazza Grande di Lucio Dalla? No, ditemelo voi, dove vi capita? Da nessun'altra parte, a Radio 24, si può fare, la domenica mattina. Allora, abbiamo anticipato, siamo a Torino, spesso sentiamo dire da alcune forze, note forze politiche, prima gli italiani, oppure gli immigrati stanno in hotel e gli italiani sono senza casa. Che siano terremotati o senza tetto, padri separati, altre categorie, insomma lo sappiamo, è un po' il refrain della Lega e di Fratelli d'Italia. Senza entrare nel merito di questa questione, perché può diventare anche difficile in certi casi sapere se uno va, è figlio di mamma italiana e babbo straniero, dice tu hai diritto o non hai diritto, questo, a parte questo. Allora, questa cosa di cui vi parliamo adesso accade a Torino, comune amministrato dal Movimento 5 Stelle. La faccio corta perché il Movimento 5 Stelle che non è tacciabile di stare da una parte né dall'altra di questa diatriba. Allora, intanto diamo la buona domenica e benvenuta a Sonia Schellino, assessore al welfare del Comune di Torino. Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, buongiorno. voi state cercando di dare una mano a tutti, naturalmente, perché accogliete profughi, come chiede il Ministero degli Interni, quando arrivano le quote necessarie, però fate anche un lavoro sui senza tetto in particolare, perché in questi giorni di grande freddo è questa l'emergenza, ci sono tante persone che veramente rischiano la vita ogni notte. Cosa state cercando di fare per queste persone? Ma per far fronte alle difficoltà che nel periodo invernale si presentano alle persone senza dimora, il Comune ha varato un pacchetto articolato di misure. Intanto abbiamo potenziato il numero di posti disponibili. Ogni anno viene fatto un bando per proporre alle associazioni del terzo settore, alla Caritas e a tutti i movimenti del privato sociale che si occupano di questa categoria di persone di incrementare il numero di posti letto che già durante l'anno, insieme ai dormitori gestiti dal Comune, garantiscono alle persone senza dimora di non passare la notte in strada qualora lo vogliano. Naturalmente alcuni preferiscono passare la notte in strada, in questi giorni stiamo avendo anche qualche difficoltà a convincerli ad andare nei posti. Nei ricoveri, certo. E tra l'altro questo è importante ricordarlo, perché se ho capito bene la stampa ha dato una notizia un po' fuorviante, ovvero che voi davate i soldi alle famiglie per accogliere a famiglie private, invece in realtà il vostro è un piano che si riferisce ad associazioni che già fanno questo, giusto? Esatto, è un piano molto più ampio, il progetto che abbiamo chiamato accoglienza diffusa, quello che appunto hanno citato i giornali definendolo accoglienza in famiglia, è solo una di queste misure. Questo progetto coinvolge le associazioni o le altre organizzazioni senza scopo di lucro nell'offerta di accoglienza residenziale, ovvero uno spazio adeguato per la vita quotidiana insieme alla possibilità di relazionarsi con altre persone in un clima familiare. Forse questo citare il clima familiare nella narrativa della delibera, certo, ha fuorviato alcune interpretazioni. Come sempre, no, i giornalisti poi ci cascano come dei polli. Sì, perché hanno molte notizie, la fretta di pubblicare, oggi poi con i sistemi di informazione con internet. Sì, sì. Ho letto no? 300 euro a chi ospita un senza tetto, mi immaginavo proprio le persone in fila, sia i senza tetto sia le persone in fila, dicendo lo ospito io per 300 euro, siamo matti? Senta, assessore. Sì, e l'assessore probabilmente che matchava e metteva insieme. Esatto, e pagava cash proprio fuori. Così lei in persona, sì, sì. L'abbiamo chiamata per questo in realtà, perché avevo un posto libero e volevo avevo in mente di fare una domanda, però abbiamo 30 secondi, glielo dico. Non so se c'è il tempo di rispondere. C'è questa sproporzione secondo lei tra l'offerta di aiuto per gli italiani e per i non italiani secondo lei in Italia? Ma c'è grande bisogno per tutte le categorie, cerchiamo di aiutare tutti senza discriminare, perché ci mancherebbe. Naturalmente ormai ci sono persone che sono residenti in Italia da talmente tanti anni che sono cittadini a tutti gli effetti, e chi vuole discriminare semplicemente per il colore della pelle o perché appartengono ad un'altra etnia, francamente non ci interessa. Noi vogliamo aiutare tutti, famiglie nate qui. Bene, famiglie... dobbiamo chiudere, ma mi sembra chiaro il messaggio, forte e chiaro. Forse ci sarà bisogno di tornarci su questo argomento. Grazie. La richiamiamo all'assessore Sonia Schellino di Torino. E con questo ringraziamo tutti: Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Claudio Schiattone, Carmelo Lauricella, oggi in regia. Ci risentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E a chi ci ascolta in podcast.